4D. Ascolta e rispondi. Prendete qualcosa? Sì, prendiamo un caffè. Leggete qualcosa? Sì, leggiamo una rivista. Chiedete qualcosa? Sì, chiediamo un'informazione. Mettete qualcosa di pesante? Sì, mettiamo una giacca. Temete qualcosa? No, non temiamo nulla. Comprendete qualcosa? No, non comprendiamo nulla. Vendete qualcosa? No, non vendiamo nulla. Vedete qualcosa? No, non vediamo nulla. Vincete qualcosa? No, non vinciamo nulla.